tingali maari tiki uhao loko mos marhite ulomi di panatama si pisur nauli tarahu tolomi marjanji ho tua. Bintang nadi langit.